Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Buona giornata, gentili ascoltatori. Versione puntata particolarmente succinta del programma. I saluti vi arrivano da parte mia, da parte di Miriam Lucchetti in redazione con Riccardo Poli e Pietro Lacorte alla parte tecnica. 349-238-6666, dovete essere velocissimi quest'oggi a porre domande a me, ai miei ospiti, ma siccome nessun luogo è lontano, il tempo stringe, subito in Siria. الناس اللي نزلت على الشارع امبارح 100,000 شخص نزلوا على ساحه الشعب بدي اقول لك حاجه هذا توثيق يا ابو One of the youngest and latest casualties in the violence. Ieri gli osservatori della Lega Araba guidati da Mustafa al-Dabi, 60 in tutto, ma dovrebbero diventare 150 nelle prossime ore, si sono recati a Homs, uno dei luoghi cruciali, nevralgici della lunga rivolta siriana. Si muoveranno su veicoli messi a disposizione dal governo siriano. Lo stesso giorno 15 morti secondo l'osservatorio da Londra, 34 il giorno prima, ma allo stesso tempo il governo siriano rilasciava 755 attivisti non violenti detenuti, appunto poi rilasciati. Insomma, la sensazione è un'intensa attività di facciata mentre continua la repressione. È così, giro subito la domanda a Lorenzo Trombetta, corrispondente dell'ANSA da Beirut e anche analista di Limes. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno a voi. Beh sì, è così, ma siamo abituati ormai a questo tipo di strategia da parte del regime di Damasco, che un po' ricorda quello che fanno i bambini quando viene chiesto loro di mettere a posto la stanza dei giochi e di ripulire la stanza dei giochi e infilano tutto sotto il letto, le sedie, i mobili. Poco tempo hanno apparentemente ripulito il pavimento, ma tutto è rimasto dietro i mobili. I siriani, sappiamo, e vediamo anche numerosi video, hanno ridipinto i blindati dell'esercito, i mezzi dell'esercito di blu per farli sembrare quelli della polizia, sì. Hanno distribuito carte d'identità, poliziotti con il logo del Ministero degli Interni ai miliziani lealisti che operano da mesi in modo, diciamo, informale, queste bande lealiste chiamate, note come Shabiha, fedeli al regime. Hanno ritirato gran parte dei carri armati da Homs poche ore prima dell'arrivo martedì scorso della prima squadra di osservatori a Homs, in particolare fino a ieri, col fatto che c'erano questi osservatori che cercavano di entrare nei quartieri più caldi, il numero di vittime si è ridotto molto, sì. Insomma, siamo passati dalle 40 giornaliere alle appena 15, ecco. Però questo... proporzionalmente in altre città dove gli osservatori non erano presenti ieri si sono avuti la repressione continuata, anche dove insomma lo sguardo della Lega Araba non è arrivato. Certo, perché 150 osservatori per un paese grande e una situazione complicata come quella siriana non sono certamente sufficienti. Come possiamo valutare in generale, da un lato appunto, il ruolo giocato da questi osservatori, che lo ricordo sono guidati da questo generale Mustafa al-Dabi, ex generale, che è stato il capo dell'intelligence sudanese negli anni 90, e questo insomma ha creato anche qualche problema. Molti osservatori, molti commentatori hanno detto, beh insomma, andate a mettere un personaggio che era la guida dell'intelligence sudanese proprio durante gli anni peggiori del Darfur, della repressione verso i ribelli, va praticamente a fare il lavoro per il quale insomma potrebbe essere additato tra i responsabili. Beh sì, esatto, questa è una delle critiche che sono state subito mosse al segretario generale della Lega Araba quando ha nominato Dabi capo degli osservatori. Sono stati proposti tre nomi, i siriani hanno scelto Dabi, appunto non a caso, perché anche coordinatore è stato negli anni in cui la forza congiunta di pace ONU, unità dei paesi africani, era dispiegata nel Darfur. Lui era coordinatore per il governo di Khartoum, è descritto come un uomo vicino a Omar al-Bashir, che sappiamo essere accusato di genocidio e crimini contro l'umanità. Sì. Ieri Dabi, in una dichiarazione all'agenzia Reuters, ha detto: finora a Homs non ho visto nulla di terrificante, ma ricordiamoci che siamo comunque ai primi giorni della nostra missione, cercheremo di essere il più trasparenti possibile. I 150 osservatori ancora non sono in Siria, per adesso sappiamo che ce ne sono poco meno di 50, divisi poi in squadre da 6-7 osservatori che si devono per gioco forza, coordinare comunque con le autorità locali, certo. Quindi devono comunque comunicare in anticipo almeno di 24 ore i loro movimenti. Questo facilita ovviamente il lavoro di organizzazione del regime, che cerca così di mascherare, certo, le violazioni. Ecco, tra l'altro nell'audio che abbiamo mandato in onda a inizio puntata si sentivano proprio, poi parlavano chiaramente in arabo, ma si sentivano gli inviti dei cittadini di Homs agli osservatori della Lega a seguirli nei quartieri dove appunto c'era repressione, c'erano combattimenti, ma questa cosa appunto non è avvenuta. Secondo te, Lorenzo, che cosa, quale fattore potrà come dire, far cambiare la faccia e l'attitudine, l'atteggiamento a questa delegazione della Lega Araba, o come dire, già sappiamo come andrà a finire? No, non sappiamo come andrà a finire, cerchiamo di essere il più possibile ottimisti, anche se la situazione ovviamente ci impone di essere molto cauti. Il video a cui facevate riferimento risale a mercoledì, quando appunto gli osservatori, perché c'erano degli spari provenienti da alcuni tetti, diciamo da cecchini che sappiamo essere governativi, ma gli osservatori non li hanno visti in faccia. Successivamente, il giorno dopo, gli osservatori sono tornati in quella piazza, sono riusciti ad attraversare quella strada che il giorno prima non erano riusciti ad attraversare per timore di essere colpiti dai cecchini, sì. Ma erano scortati da un ufficiale governativo siriano. I residenti quindi si sono opposti all'ingresso degli osservatori, ma non perché non volessero gli osservatori, ma perché non volevano che gli osservatori entrassero con un accompagnatore del regime. Solo dopo numerose negoziazioni, alla fine l'ufficiale si è ritirato, ha lasciato gli osservatori liberi di entrare nel quartiere che si chiama Babambro, e gli osservatori ieri hanno potuto verificare di persona con i residenti la situazione di un quartiere forse il più martoriato di Homs, dove si sono registrati, sono visibili tra l'altro i segni sono mostrati numerosi edifici distrutti dall'artiglieria e dai mortai dell'artiglieria governativa. Grazie. Allora, Lorenzo Trombetta, buona giornata e buon lavoro. Buon lavoro a voi. E cambiamo decisamente pagine e andiamo in un lampo in Corea del Nord. E così, come sentite, anche il commento del giornalista della TV di Stato è stato rotto dal pianto. Neve e lacrime, titolava il Corriere della Sera di oggi, per raccontare i funerali di ieri. E il nuovo leader è Kim Jong-un, il terzo genito del caro leader. Cerchiamo di capire meglio e in estrema sintesi chi è il nuovo leader della Corea del Nord, grazie a Luca Vinciguerra. Luca, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Luca Vinciguerra, corrispondente per il Sole 24 Ore da Shanghai, che però conosce bene la Corea del Nord perché fra l'altro è riuscito anche a entrarci, non è cosa facile. Ti prego di essere telegrafico ai noi e sintetico. Che figura è il nuovo leader della Corea del Nord? Beh, sai, quello che possiamo dire, io come tutti gli altri cronisti, anche se sono stato in Corea del Nord e conosco il paese, è quello che possiamo ricavare da quel poco che filtra, quelle poche informazioni che filtrano soprattutto grazie all'intelligence sudcoreana, che è molto attenta a studiare quanto succede a nord del 38esimo parallelo. Si tratta di un ragazzo di età compresa tra i 26 e i 28 anni, che ha studiato all'estero, in un collegio svizzero, e che appunto, come dicevi tu, è il terzo genito del leader appena scomparso la settimana scorsa per un attacco cardiaco. Quello di sicuro, ciò che c'è di sicuro, è che questo futuro leader è il personaggio individuato da tutta la leadership nordcoreana, rappresentato in particolare dai militari, come futuro presidente del paese, anche sebbene l'elite nordcoreana sia divisa al suo interno. Per tenere insieme il paese, tutto sommato è meglio rispettare le volontà del leader scomparso e quindi continuare sulla linea del figlio, il terzo della dinastia dei Kim. Ecco, Luca, che cosa cambierà per questo paese con questa successione alla sua guida? Probabilmente non cambierà nulla, proprio perché, come stavo dicendo, l'unica cosa che interessa al momento all'elite coreana è tenere tutto come sta, perché qualsiasi cambiamento potrebbe portare a un'implosione del paese, e oggi questa è una cosa che non è nell'interesse degli stessi nordcoreani che stanno al potere, non della gente della strada ovviamente, né delle nazioni vicine, della comunità finanziaria, della comunità internazionale, che vuole tutto sommato mantenere le cose come stanno finché non si individuerà una soluzione, tra virgolette, morbida, una transizione morbida, diciamo di stampo cinese o di stampo vietnamita, cioè una transizione verso un'economia di mercato che però dovrà essere gestita nei tempi e nelle modalità dovute, cioè non può essere una cosa così provocata, certo, dalla morte improvvisa di un leader, certo. Questo è l'unico scenario virtuoso che possiamo immaginare, ma non è una cosa sicuramente di domani. Certamente la Corea del Nord è uno dei paesi più blindati, più oscuri e meno raccontati forse del mondo, però tu ci sei stato, se non erro, 4 anni fa, allora ti chiedo ancora in estrema sintesi, perché davvero siamo in chiusura, un'istantanea, una fotografia che ti sei portato tornando in Cina da quel paese. È sicuramente un paese povero, affamato, frustrato, ma anche un paese molto interessante, soprattutto venendo da Occidente, venire ad andare in un paese dove tu per 5 giorni, perché sono questi i tempi dell'aereo che da Pechino ti porta a Pyongyang e che ti riporta indietro, per 5 giorni tu devi stare obbligatoriamente senza un computer, senza un collegamento internet, senza un telefono mobile. Già questo di per sé per un occidentale è un'esperienza un po' particolare. Per il resto direi uno scenario come quello che si vedeva negli anni 60, negli anni 70 e ancora negli anni 80 nei paesi socialisti dell'est Europa, però con un clima ancora più plumbeo. Io non ricordo, nell'Ungheria, nella Cecoslovacchia di metà anni 80 non ricordavo una povertà come quella della Nord Corea di oggi. Ecco, lì c'era comunque un abbozzo di classe media, soprattutto a Budapest, a Praga, sì, che invece è totalmente inesistente in quella del nord. Io ho visto migliaia di contadini andare e tornare dal lavoro a piedi, facendo decine di chilometri al giorno a piedi. Veramente un tuffo nel passato. Grazie Luca, perdonaci, ma il tempo oggi è stato veramente tiranno. Grazie Luca Vinciguerra, corrispondente del Sole 24 Ore da Shanghai. Grazie a voi gentili ascoltatori per essere stati con noi anche quest'oggi. Grazie vi viene anche da Riccardo Poli, Miriam Lucchetti in redazione a confezionare con me questo programma, Pietro Lacorte che le ha dato ritmo e musica. Noi ci sentiamo domani 13:15.